Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata non economico-finanziaria, perché anche oggi ci occuperemo del disastro che avremo anche aggiornamenti dall'Abruzzo. Chiaramente la cosa che possiamo dare come contributo, oltre alla cronaca, vi anticipo e vi annuncio che alle 17.30 rifaremo collegamenti con i nostri inviati in Abruzzo e ridaremo anche il punto poi di nuovo alle 18. Il programma oggi termina alle 18. Dicevo, il contributo che possiamo dare è un contributo che riguarda il tema più delicato. Mi rendo conto e sono d'accordo con chi scrive che non sia assolutamente adesso il momento delle polemiche, però non è possibile vedere le case sbriciolarsi come dei pan di zucchero. Poco fa l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, ha detto che manderà gli ispettori per capire con che criteri sono state costruite queste case, da un lato, e poi ha offerto la sua disponibilità a ricostruire la casa dello studente. Questo in un momento in cui poi si discute, giustamente, ingiustamente, questo non è il nostro obiettivo, il nostro compito dirlo, di un disegno di legge che porta ad incrementare i volumi degli edifici, che va benissimo per far ripartire l'economia, il 20%, poi il 35% se ecocompatibili. E allora la domanda è una e una sola: immaginiamo cosa sarebbe successo se queste case all'Aquila, ma non solo, avessero avuto non due piani, ma tre, quattro, cinque piani. O le case vengono costruite in maniera, diciamo, sismica, nelle zone sismiche, in maniera antisismica, oppure il rischio è che nella ricostruzione, diciamola tutta, poi si compiono i disastri, gli errori che poi porteranno a nuovi disastri ed errori. E questo per quello che riguarda il tema di questa puntata. E poi avremo un aggiornamento, perché di rigore dobbiamo darlo, anche sui mercati finanziari deboli oggi, meno 0,3%. Il tema è questo: che garanzie può dare l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia che le case ricostruite, anche con la legge che permetterà di avere il 20% in più, quindi immaginiamo anche le case che potranno essere messe a posto e allargate, vengano costruite con criteri antisismici, se no stiamo ragionando del nulla. 349-238-6666 per i vostri sms. Dopodiché la cronaca esiste chiaramente anche di questa giornata economico-finanziaria. Soprattutto le notizie per quello che riguarda l'Italia arrivano dalla Russia. Continua la missione imprenditoriale della Confindustria con il ministro Scajola, oggi l'incontro con Medvedev, notizie che riguardano anche mercato, Finmeccanica, l'avete letto sui giornali. Il ministro della difesa americano Gates ha detto no, fermi tutti con i programmi di spesa, a partire da quello dell'elicottero del presidente, costa troppo, i costi sono raddoppiati, l'elicottero lo costruisce la Finmeccanica tramite Augusta Westland, poi lo fa assemblare dalla Lockheed. E sono 16 miliardi di dollari in ballo per quello che riguarda l'operazione. Il titolo Finmeccanica oggi però va bene, più 2%, anche perché il gruppo ha fatto sapere ieri sera in una nota che nel caso di rottura ipotetica dell'accordo la penale da pagare per il governo americano sarebbe, diciamo, pari al valore della commessa. E poi un accordo dell'ENI sempre in Russia. Quindi partiamo con notizie in breve, poi andiamo al tema di approfondimento. 349-238-6666 per i vostri sms. Petrolio sotto i $50 al barile a New York, l'oro nero cala a $49,56, Euribor scende all'1,45%. L'Europa questa mattina ha aperto molto molto debole, poi ha recuperato, dicevo, il mercato perde mezzo punto percentuale, molto bene Autogrill, più 3,6, Pirelli più 3,3, Buzzi Unicem più 2,2, Finmeccanica più 2,1%, Terna più 2, l'automatica più 1,80, Telcementi più 1,6, Unipol 1,5, Eni più 1,4 come Enel, Fiat perde il 5, Intesa il 3,80, il Banco Popolare perde il 3,3, Ansaldo CTS il 3,2, Bulgari pure, il 3% lo perde Saipem, il 2,4 Prismian, il 2,2 in pregiro, il 2% è il calo di Atlanti e di Tenaris, Davide, e la Campari perde l'1,6. L'Europa, dicevamo questa mattina, in calo con le banche, con i bancari, le materie prime, e tra l'altro oggi a penalizzare anche in Italia, come avete sentito, i titoli bancari, è stato anche lo scenario Petro, tratteggiato ieri dal finanziere George Soros. In un'intervista a Reuters TV ha definito il sistema bancario non italiano, diciamo quello mondiale, sostanzialmente insolvente. I think that there's a real danger that people don't understand. Penso che ci sia un problema serio che la gente non capisce. Ossia che il sistema bancario è sostanzialmente insolvente e non c'è modo di tornare a dove eravamo, al punto di partenza. Il piano messo a punto dal governo statunitense funzionerà, ma non è abbastanza. Inoltre, è come se stesse fornendo sovvenzioni nascoste alle banche. Per questa ragione, si limita la volontà del Congresso nel fornire capitale fresco alle banche sane. Le autorità devono operare con il denaro che hanno a disposizione, ossia ciò che è rimasto dal piano TARP. Hanno attinto 100 miliardi da quel piano e altri 900 miliardi li hanno ricevuti dalla Fed, per un totale di 1.000 miliardi di dollari. Ancora, secondo il Fondo Monetario Internazionale, i cosiddetti titoli tossici presenti nelle pance delle banche e delle compagnie assicurative potrebbero raggiungere la somma di 4.000 miliardi di dollari. Solo a gennaio la previsione era di 2.200 miliardi, mentre in Gran Bretagna la Royal Bank of Scotland ha annunciato il taglio di altri 9.000 posti di lavoro, di cui la metà in Gran Bretagna, il resto in giro per il mondo, dopo averne già eliminati i posti di lavoro 2.700 dall'inizio dell'anno. Io ricordo che il manager della Royal Bank of Scotland è quello che si è beccato una mega liquidazione e nonostante il governo di Gordon Brown gli abbia chiesto di ridarla, non ci pensa minimamente. E vabbè. Anche perché la Royal Bank of Scotland l'anno scorso ha preso 24 miliardi di sterline di perdite ed è di fatto nazionalizzata. E complimenti al manager. Paradisi fiscali, OCSE, nessun paese, praticamente i quattro paesi che figuravano nella lista nera dei paradisi fiscali, Uruguay, Costa Rica, Filippine e Malesia, hanno preso l'impegno di rispettare le norme fiscali internazionali, quindi escono dalla lista nera e entrano nella lista cosiddetta grigia. Rapidamente, a marzo, per fortuna in Europa il calo di posti di lavoro è inferiore alle previsioni, questa è una delle poche buone notizie, mentre le retribuzioni contrattuali in Italia hanno fatto più 3,5% a febbraio e più 4,3% a gennaio. Andranno invece in cassa integrazione per 13 settimane consecutive dal 4 maggio al 2 agosto 973 cosiddetti colletti bianchi della Fiat, quindi quadri e dirigenti, tra l'altro 470 degli enti centrali di Mirafiori, 240 della Powertrain, 255 all'Iveco. Altri 1069 colletti bianchi, si usa il termine per distinguere dagli operai, faranno 6 settimane di cassa integrazione ma non consecutive. Sono infatti in grande maggioranza impiegati, tra anche i 4.530 dipendenti delle strutture centrali di Fiat, dove la cassa integrazione durerà invece una settimana, dal 18 al 24 maggio. Prosegue intanto la missione italiana in Russia, organizzata da Confindustria, dall'ICE, dall'ABI, a cui prendono parte 800 imprese e oltre 12 gruppi bancari. Tra l'altro oggi scambio di battute tra il ministro Scajola, che ha detto adesso la Marcegaglia non è più un corvo, è un cigno, e la presidente di Confindustria Marcegaglia, che ha risposto: beh, sono preparata per tutte e due le cose, indosso la camicia bianca del cigno e sopra una giacca nera del corvo. Ma invece, venendo agli accordi economico-commerciali, oggi il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha annunciato un accordo con Gazprom per 4 miliardi 200 milioni di dollari, nel senso che Gazprom ha esercitato l'opzione e pagherà l'ENI 4 miliardi 200 milioni di dollari, compresi gli interessi, per riacquistarsi il 20% di Gazprom Neft. La quota venne comprata dall'ENI nell'aprile del 2007 dopo il fallimento, e quindi in asta pubblica dopo il fallimento della Yukos. La Yukos era quel colosso energetico di proprietà di Khodorkovsky, che è attualmente ancora rinchiuso in una specie di gulag siberiano, e ogni volta che passa ogni anno vede aumentare la sua pena. Diciamo, era tendenzialmente entrato in contrasto con il Cremlino e con Vladimir Putin. Sentiamo Scaroni sull'annuncio che Gazprom si ricomprerà il 20% di Gazprom Neft. Noi siamo dei grandi compratori di idrocarburi in Russia. L'anno scorso abbiamo fatto un assegno da 8 miliardi di euro per approvvigionare di gas l'Europa. Quindi un rapporto tecnologico anche, investiamo in Russia, insomma continuiamo a essere il loro partner favorito. Da sempre Gazprom diceva che avrebbe esercitato la scadenza, la sua call su Gazprom Neft. L'ha fatto, ci pagherà 4 miliardi e 200 milioni di dollari all'incirca, che è esattamente il prezzo che noi avevamo pagato più gli interessi. Ovviamente questa è un'operazione mondiale che non traguarda l'Italia in modo particolare, ma traguarda casomai la nostra presenza europea. Certamente ogni passo che si fa per stringere i rapporti con la Russia alla fine beneficia il consumatore italiano e la sicurezza dell'approvvigionamento del nostro paese. E poi in Russia è presente anche Finmeccanica, che ha firmato 3 accordi in Russia. Leni Aeronautica, controllata dal gruppo Finmeccanica, ha perfezionato l'acquisizione del 25% della Sukhoi Civil Aircraft, che è la società che produce il jet Sukhoi Superjet 100, un jet appunto a uso civile. La Selex Sistemi Integrati ha raggiunto un'intesa con 2 società russe per lavorare assieme nel settore della sicurezza. E infine Ansaldo STS ha firmato un contratto con le ferrovie russe per 7 milioni e mezzo di euro per sperimentare un nuovo sistema di segnalamento ferroviario. Però se si parla di Finmeccanica, oggi come ieri sera il tema è tutto elicottero presidenziale americano, il Marine One. Dopo la doccia fredda che è arrivata addosso al gruppo guidato da Pierfrancesco Guarguaglini, ieri sera il ministro della difesa americano Gates ha detto: no, blocchiamo tutto, gli investimenti, i soldi sono raddoppiati, sono passati da 6 miliardi e 4 di costo a oltre 13, e quindi blocchiamo tutta la commessa. Finmeccanica ha sempre ribattuto, lo dico per correttezza, che il costo di questi velivoli, di questi 20 elicotteri, è raddoppiato per le richieste fatte dal Pentagono di maggiore sicurezza. Praticamente le dotazioni imbarcate su questo elicottero sono identiche a quelle dell'Air Force One, l'aereo del presidente americano, 1000 km di autonomia, deve volare a una temperatura compresa tra meno 50 gradi e più 50, per cui tutto questo ha fatto lievitare i costi. E ha detto anche che comunque la penale che dovrebbe pagare l'America se rompesse il contratto sarebbe quasi pari alla commessa. E la Casa Bianca appunto sostiene che il costo degli elicotteri è troppo alto, ma il presidente Finmeccanica Guarguaglini, al microfono della nostra Valentina Furlanetto oggi da Mosca, ha commentato anche sull'impatto eventuale sul gruppo, oltre che sugli accordi firmati in Russia. Questo non cambia i nostri numeri, perché lo stop riguarda la chiusura della prima commessa. Per quanto riguarda la seconda, noi non l'abbiamo mai messa in conto. Quindi questo significa, è una proposta del Ministero della Difesa, quindi deve poi subire tutte le approvazioni necessarie. Può darsi che, diciamo, il Congresso la pensi in modo diverso. Comunque il Presidente ha bisogno di un elicottero e penso che alla fine, diciamo, quando decideranno come iniziare questo processo, noi saremo pronti. Questo non impatta niente, prima perché la commessa è in chiusura, abbiamo consegnato già gli elicotteri. E seconda perché se non la fanno concludere ci devono pagare i danni, quindi i danni sono superiori a quello che noi abbiamo messo come numeri, quindi i numeri nostri non cambiano assolutamente. Per quanto riguarda la Russia e questa missione, oggi presenterete un accordo? Più di un accordo, perché abbiamo firmato l'accordo definitivo per quanto riguarda il Superjet, abbiamo firmato un accordo con le ferrovie per quanto riguarda il segnalamento e stiamo per firmare un accordo per quanto riguarda sistemi di sicurezza, in quanto con la IOTA, che è russa, e Sistemi Integrati faranno questo accordo per installare in Russia sistemi di sicurezza italiani. Così Pierfrancesco Guarguaglini, numero uno di Finmeccanica, quindi il gruppo dice non ci sarà nessun impatto sui conti. Devo dire che oggi il mercato ci crede, anche perché c'è questa penale. Adesso, senza stacco, senza base, non mi sembra proprio il caso, Ci occupiamo di terremoto e soprattutto dell'edilizia nelle zone colpite, visto che la cronaca la faremo fra un attimo, diciamo alla mezza, tra 5-6 minuti. Ringrazio e saluto per essere in collegamento con noi, da un lato, il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori dell'Edilizia, Paolo Buzzetti. Buonasera. Buonasera a lei. 20.000 imprese del settore, e adesso veniamo anche ai vostri annunci. Ringrazio anche per essere in collegamento con noi la collega Valeria Uva del Sole 24 Ore. Buonasera Valeria. Buonasera, grazie a voi. Già la nostra ospite oggi, tu hai scritto un pezzo su Sole 24 Ore oggi proprio sulle regole antisisma che sono state congelate al 2005, la piena entrata in vigore del decreto rinviata di anno in anno. Così non vi è nessun obbligo attualmente per il consolidamento degli edifici a rischio. Tra l'altro, continuamente rinviata la disciplina varata dopo il crollo della scuola in Molise, perché poi è inutile strapparsi le vesti prima e poi non far nulla dopo. Gli aggiornamenti che ci riguardano i versamenti locali e nazionali, cioè oggi, pochi istanti fa, l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che i pagamenti delle tasse locali e nazionali per i comuni colpiti dal terremoto in Abruzzo sono sospesi. E ci mancherebbe. Alcuni di voi ci chiedono invece se è vero che le banche applichino la commissione anche sui bonifici per il terremoto. Onestamente non lo so, adesso ci informiamo, magari chiamando anche direttamente l'ABI. Immagino di no, cioè a rigor di logica spero proprio di no. Un bonifico per l'aiuto al terremoto dovrebbe essere esente da qualunque cavolo di commissione bancaria. Comunque adesso accertiamo, la domanda è assolutamente corretta e chiedo appunto in studio se possono verificare, magari chiamando direttamente anche l'ABI. Ancora vedo qualche messaggio un po' polemico sulla legge che dovrebbe permettere l'ampliamento delle abitazioni 20%. Adesso ci arriviamo con Paolo Buzzetti. Allora, Presidente Buzzetti, prima cosa, voi avete annunciato che ricostruirete la casa dello studente, se mi dà i due annunci di oggi, prego. Per parlare degli annunci, anche per cercare di parlare, voglio dire, in positivo e guardare, come dire, a quello che si può fare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre imprese, i nostri operai presso Protezione Civile lì sul luogo per come serviranno. Poi abbiamo annunciato di voler dare un fortissimo impulso, avvio, contributo professionale, di mettere a disposizione mezzi, denari per la casa dello studente, che purtroppo è uno dei simboli di questo gravissimo sisma. Poi sa che insieme a tutta la filiera delle costruzioni con materiali tecnicamente avanzati, poi abbiamo anche insieme ai sindacati, abbiamo una trentennale collaborazione negli enti diciamo che gestiamo insieme per la formazione edile, le casse edili, le scuole che formano i tecnici, abbiamo deciso, metteremo a disposizione tecnici specializzati quando sarà il momento delle ricognizioni nelle case. E poi ancora noi come ANCE vogliamo daremo vita a una nostra commissione con una primaria università italiana per andare poi a studiare bene gli effetti del sisma purtroppo sugli edifici che sono stati danneggiati. Quindi una serie di iniziative per collaborare a questo momento di grande solidarietà nazionale, che mi sembra giustissimo, insomma, innanzitutto come primo elemento di azione rispetto alla tragedia. Allora, volete anche gli aggiornamenti? Adesso ve li daremo tra qualche istante. Fermo restando che è assolutamente apprezzabile e encomiabile il vostro sforzo, devo dare qualche risposta al 349-238-6666 e poi entriamo nel secondo tema, Presidente Buzzetti, anche con Valeria Uva. Dunque, dite, ma molte delle case crollate erano case vecchie. Allora, è un po' presto per dirlo. Però intanto sembra che intere parti del centro storico dell'Aquila abbiano resistito meglio di edifici costruiti negli anni 70, cioè se fossero crollate solo le case, diciamo, che hanno 50, 60, 70 anni, fatte in pietra, recuperate e rimesse a posto, si può capire. La cosa che fa obiettivamente specie è vedere chi viene giù la casa dello studente, le case costruite negli anni 70, le palazzine negli anni 60, cioè con che materiali poi viene giù una e quella accanto no. Insomma, per favore, siamo seri sulle tragedie. Vorrei capire, lei che idea si è fatto, intanto Buzzetti, poi arriviamo anche al piano casa, perché la domanda che pongono molti ascoltatori è: va bene, ma se queste case avessero avuto un piano in più, avremmo avuto un disastro ulteriore. Allora, o qui garantiamo che il 20% in più nelle volumetrie è costruito a norma di legge, o se no andiamo, diciamo, a peggiorare una situazione in un paese in cui, mi sembra di capire, le norme antisismiche nelle zone sismiche non vengono spesso rispettate. Però vorrei sapere, Presidente Buzzetti, lei che cosa ha pensato, visto che fa il costruttore, quando ha visto due edifici degli anni, degli stessi decenni, uno venire giù e l'altro no? Guardi, innanzitutto c'è da dire che la legge antisismica in Italia c'è solo dal 74. Certo. Questo cosa comporta? Che il 65% circa del patrimonio edilizio non aveva queste disposizioni di legge, solo il 35% sì. Inoltre ci sono, è noto agli studiosi del tema, che ci sono una parte di questo patrimonio, il 65%, che avrebbe assoluto bisogno di interventi, senza nessun allarmismo, ma insomma necessari interventi di rinforzo strutturale e di interventi antisismici, perché poi la situazione della mappatura di rischio in Italia è cresciuta in questi anni. Allora, questo è un tema che si pone fortemente all'attenzione. Intanto, anche ciò che è stato costruito bene ma sta in zona sismica e non è antisismico, bisognerebbe intervenire. Negli anni Ottanta addirittura fu fatta una ricerca, in particolare sugli edifici pubblici, che in questi casi dovrebbero essere quelli che resistono di più, perché sono i luoghi dove si concentra poi l'attività di reazione, gli ospedali, le scuole, le caserme, e che invece abbiamo visto in questo caso hanno ceduto come gli altri, perché spesso stanno gli edifici pubblici in edifici antichi o comunque vecchi che non hanno avuto questo tipo di interventi. Allora direi che un primo elemento è questo, al di là delle case in muratura dove vari interventi e dove cose possono renderlo più spiegabile. Riguardo alla domanda lei che mi fa specifica, direi dice quelli, vediamolo prima, cioè prima dobbiamo capire e vedere con attenzione. Io dubito in generale che, venendo ad anni più recenti vicini a noi, ci possa essere, per la dinamica del mercato, un risparmio voglio dire sull'acciaio piuttosto che, cioè, sui materiali da costruzione. Queste sono cose probabilmente che accadevano passati. Dico, quindi ci sono proprio delle fasce dei periodi, lei prenda quelli dal 45 al 52, che gli studiosi sanno che sono quelli che dobbiamo andare a controllare per primi. Quindi direi che è necessario cogliere l'occasione, senza polemiche, senza ragionamenti, di cose che da molto tempo si dicono, e con questa vicenda anche delle normative nuove del piano casa e via dicendo, andare a cogliere l'occasione per intervenire sugli edifici pubblici, anche non residenziali, quindi estendere le norme, e preoccuparsi anche finalmente del rischio sismico. Naturalmente cogliendo l'opportunità che può venire da questo movimento di risorse, anche per, come dire, obbligare a intervenire. Sì, però Presidente, un attimo però, chiarissimo sul ragionamento, devo dare anche qualche aggiornamento in più e poi il metro, la pubblicità, poi ripartiamo. Però la domanda era un po' più semplice, cioè c'è una legge, il piano casa, che prevede la possibilità di ampliare del 20% le strutture residenziali. Allora io chiedo, voi sareste d'accordo come ANCE, il vostro potere è importante, lei mi risponde poi dopo la pubblicità, ma insomma è importante che venga inserito, cioè, il vincolo, per esempio, del controllo, della verifica sull'impatto antisismico? Se no, di che cosa stiamo parlando? È inutile stracciarsi le vesti, vabbè, avremo un altro terremoto fra 10 anni e torneremo a fare le stesse cose, non ci sono più io, magari non ci sarà più lei come presidente, ma diremo le stesse cose, e poi passata la festa, gabbato lo santo, in questo paese è sempre così. Allora, o si dice, attenzione, vanno fatti controlli sulle volumetrie, anche perché sappiamo che al sud non è per cadere nei luoghi comuni, ma i controlli spesso sono irrisori o inesistenti. Se poi ci passa sopra un bel condono, è chiaro che vediamo le case non di fine secolo scorso, ma degli anni 70 sbriciolarsi come se fossero zucchero a velo. Questo è il problema. Allora, uno. Due, se lei mi può aiutare a capire, a questo punto, se sia pensabile, diciamo, fare lobby e pressione su questo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, chiedo ancora qualche minuto di pazienza a Valeria Uva e al presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti, che a cui chiaramente ho fatto una domanda su che cosa può fare l'ANCE, che, ripeto, essendo un'associazione di categoria è anche trasparente, ha un decalogo e un codice deontologico interno, quindi è una garanzia, perché vorrei collegarmi con Valeria De Rose per gli ultimi aggiornamenti. Purtroppo Non sono aggiornamenti positivi, Valeria? Sì, buonasera Sebastiano. Infatti, come dicevi tu, purtroppo non si tratta di aggiornamenti positivi perché dopo aver individuato i 4 studenti intrappolati nel dormitorio, nella casa dello studente all'Aquila, i vigili del fuoco hanno trovato morte 2 ragazze originarie di Foggia. Ancora nulla si sa sugli altri 2, anche se poco fa il rettore dell'Università dell'Aquila di Orio aveva confermato di aver notizie certe sulla morte di tutti e 4 i ragazzi, quindi tutti e 4 gli studenti. Prima di questa notizia, l'ultimo bilancio parlava di 207 vittime, di cui 17 non ancora identificate, 150 persone estratte vive e poco più di 1000 feriti. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per i crolli seguiti al terremoto. L'ipotesi di reato sarebbe disastro colposo. Per ora non ci sono indagati, si tratta dunque di un fascicolo a carico di ignoti. Se dovessero emergere responsabilità andremo avanti, questo è quanto ha affermato il procuratore dell'Aquila Alfredo Rossini. Ricordiamo che è da poco terminata la visita del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il quale ha parlato degli aiuti per la ricostruzione eventualmente in arrivo dagli Stati Uniti. Questo ha detto Berlusconi: se gli Stati Uniti vorranno dare un segno tangibile della loro vicinanza all'Italia, potranno prendersi la responsabilità della ricostruzione dei beni culturali e delle chiese. Questo sarebbe l'accordo trovato attraverso una conversazione telefonica avvenuta proprio tra il presidente Obama e Silvio Berlusconi. Valeria, l'ultimo aggiornamento, purtroppo il bollettino non è di quelli allegri, ma gli sfollati a questo punto che cifra hanno raggiunto? E se si mantiene l'emergenza acqua, luce e gas, quali strade sono riaperte? Allora, per il momento diciamo che dal punto di vista delle emergenze acqua e luce sono state ripristinate all'Aquila e anche in molti dei comuni limitrofi. Per quanto riguarda il gas ci sarebbero ancora dei problemi, soprattutto per quanto riguarda i comuni vicino l'Aquila. Sugli sfollati non è possibile ancora dare una cifra certa, anche se per questa sera si prevede di raggiungere i 14.500 posti in tutte le tendopoli, anche se si prevede ovviamente che gli sfollati siano molti di più, però non si riesce ancora a capire quanti poi potranno trovare posto nelle tendopoli, quanti invece vorranno passare una nuova notte nelle automobili. Grazie Valeria De Rosa per gli aggiornamenti. Allora, Presidente Buzzetti, in estrema sintesi, perché poi vorrei sentire anche Valeria Uva e poi la rifaccio parlare, però pensate di insistere su questo tema, cioè, visto che c'è anche un piano casa in approvazione? Sì, ma guardi, concordo totalmente con quello che lei diceva prima, è ovvio, cioè ci devono essere rispetto di tutte le norme, e questo inserimento delle norme antisismiche, a parte che, voglio dire, era dovuto, ma sottolinearlo in questo momento assolutamente, tanto è vero che saranno dei tecnici che dovranno comunque firmare i progetti e i controlli dovranno essere estremamente severi. Guardi, il concetto di paese moderno è semplificazione e controllo serio e vero. Diciamo che molto spesso è accaduto in passato che forse sono fatte delle cose senza che ci fossero nemmeno dei tecnici, diciamo, in qualche modo a verificarle. Quindi il 20% ha significato, nel momento in cui siano fatte le cose bene, è storica la battaglia, diciamo, contro l'abusivismo o interventi che non rispettino delle garanzie, voglio dire, di tipo infrastrutturale importante. Quindi su questo punto non ci può essere nessuna discussione, insomma, assolutamente. È l'occasione anzi per risottolineare questi aspetti, questo certamente. Tra l'altro, le dico l'ultima cosa, noi, mi permette di dire la strana coppia, noi e Legambiente abbiamo presentato e ripresenteremo insieme, questo glielo dico perché ci incontreremo, l'insistenza sulle norme tecniche, sul risparmio energetico, sull'antisismico e tutto quello che bisognerà cercare assolutamente di rendere importante per modernizzare gli edifici. Allora questo tra l'altro dico, e poi magari niente condoni, lo dico in generale, non certo a lei, perché poi se su tutto questo si mette una bella mano di bianco del condono sull'abusivismo edilizio, non si va da nessuna parte. Valeria Uva, scusami per l'attesa, posto che, diciamo, si arrivi a inserire nel decreto sull'ampliamento della casa l'obbligo, la verifica, gli ispettori, hai ragione Buzzetti, è inutile fare le leggi se poi non c'è nessuno che va a verificare se siano usate norme antisismiche. Allora, l'ospedale era del 2000, la casa dello studente anche lì aveva pochissimi anni, sono crollate cose che avevano 4-5 anni, ma insomma stiamo pazziando veramente. Do anche un'informazione di servizio, no, abbiamo contattato l'ABI, il 99% delle banche non applica nessuna commissione per i bonifici a favore dei terremotati. Tra l'altro già avevano segnalato ascoltatori Unicredito, Monte dei Paschi, Intesa ed altre banche prive di commissioni. Valeria, però la situazione qual è? La situazione è ancora piuttosto critica, almeno sotto il profilo della cornice legislativa in cui ci muoviamo. Come ricordavi tu, appunto, proprio in seguito al crollo di San Giuliano di Puglia e alla morte di 27 bambini nell'ultimo terremoto più importante, appunto, che aveva colpito il Molise nel 2002, si era deciso di dire basta una volta per tutte a queste tragedie, basta alle case, alle abitazioni e soprattutto agli spazi pubblici progettati male, non in sicurezza. Si era deciso di mettere mano a tutta la normativa tecnica. Da lì era nata prima un'ordinanza della Protezione Civile nel 2003 e poi addirittura un testo unico con dentro tutte le indicazioni sia per gli edifici nuovi, quindi mi riferisco ad esempio agli ospedali, ai posti pubblici come la Casa dello Studente, ma sia anche per l'adeguamento degli edifici esistenti. Lo ricordava Buzzetti, si tratta di circa il 65% del patrimonio nazionale che avrebbe bisogno di una messa in sicurezza, anche perché appunto è aumentato il numero dei comuni dichiarati sismici. Ebbene, questo testo che è arrivato nel 2005 dopo lunghi lavori di mediazioni e di compromessi in realtà non è mai entrato in vigore e siamo andati avanti di proroga in proroga, di proroga in proroga fino all'ultima nel dicembre scorso è stata addirittura di un anno e mezzo, ha spostato l'entrata in vigore al giugno del 2010. E quindi insomma bisognerà attendere giugno 2010. Per quello che riguarda i controlli, perché questa è la cornice legislativa, a figurarsi i controlli? Sì, i controlli, anche qui per gli edifici nuovi c'è l'obbligo di depositare il progetto al Genio Civile e poi il Genio Civile in teoria dovrebbe controllare tutti i progetti, molto spesso è costretto a muoversi a campione, però il problema è soprattutto negli edifici vecchi dove non esistono appunto obblighi di messa in sicurezza e quindi non esistono controlli su questa attività, perché i primi a sapere di non dover rispettare alcuna regola sono i proprietari che appunto possono tenere l'edificio senza nessun adeguamento antisismico. Da questo punto di vista il piano casa potrebbe rappresentare, come ricordavate anche voi, un'occasione e penso soprattutto al capitolo sulla demolizione e la ricostruzione degli edifici. Sì. Non è tanto l'ampliamento quanto ad esempio appunto il capitolo della demolizione e della ricostruzione che dovrebbe funzionare perché questa volta c'è un incentivo, c'è il premio di cubatura del 35%, finora si è parlato soltanto di risparmio energetico, quindi di abbattimento di vecchi edifici che sono energivori e di sostituzione con edifici più efficienti. Si potrebbe pensare a un abbattimento anche di edifici non in sicurezza e si potrebbe pensare a concedere lo stesso premio di cubatura anche a chi appunto progetta edifici più sicuri dal punto di vista sismico. Presidente Buzzetti, d'accordo? Sì, sono assolutamente d'accordo. Comunque voglio dire, bisogna tenere presente che l'occasione adesso, lasciamo purtroppo per il terremoto dobbiamo capire bene la situazione, intervenire urgentemente, poi capiremo esattamente quali sono stati i motivi di certe situazioni. L'importante però è quello che si stava dicendo, cioè che queste norme che stanno per essere introdotte velocizzano, per esempio permettono l'abbattimento e ricostruzione con premio di cubatura, che è una cosa che almeno da 15 anni si chiedeva e che possono permettere ad esempio di intervenire su edifici pubblici che sono vecchi e che hanno bisogno di interventi e anche dal punto di vista antisismico, quindi è l'occasione finalmente per mettere mano con serietà a queste norme. Poi in Italia, come dicevate giustamente, c'è il problema di far rispettare le norme, perché spesso si fanno le norme e poi c'è sempre il furbo che non le rispetta. Però in questo senso, se vogliamo credere di crescere del paese moderno, dobbiamo credere di riuscire a mettere su dei controlli che permettano di essere efficaci. Oggi c'è l'aerofotogrammetria, il satellitare, quindi tecnici che certificano e poi controlli estremamente severi. Io dico che ci dobbiamo credere, perché questa è la strada del futuro e forse possiamo permetterci di mettere giù per la prima volta dopo tanti anni, e gli studiosi mi creda lo dicono da tanti anni, anche di andare a riqualificare il patrimonio esistente dal punto di vista del risparmio energetico e naturalmente anche dal punto di vista strutturale, sapendo bene le zone in cui intervenire. Io me lo auguro veramente che l'occasione non venga persa, è già un peccato che l'occasione si chiami 211 morti fino a questo momento, però almeno che non venga persa. Grazie al presidente Paolo Buzzetti, presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, grazie alla collega Valeria Uva. Allora, ancora degli aggiornamenti per quello che riguarda la rete dell'alta tensione in Abruzzo. Terna ha fatto sapere poco fa che non c'è, per fortuna, nessun problema sulla rete alta tensione. Federalberghi ha stimato in 6.500 i posti letto messi a disposizione per gli sfollati delle strutture alberghe, messi a disposizione dalle strutture alberghe abruzzesi. La richiesta fatta dalla Protezione Civile era di 4.000 posti letto, tra l'altro portati appunto a 6.500. Ancora, sempre in questa gara della solidarietà in cui il nostro paese spicca, però vorremmo che spiccasse anche per altre cose più europee, 2 ore di cassa integrazione a sostegno dei familiari delle vittime del terremoto in Abruzzo e di quasi tutte le persone coinvolte. Praticamente i lavoratori delle officine motori di Alitalia Maintenance System, che sono tutti in cassa integrazione, daranno 2 ore della loro cassa integrazione alle vittime e ai familiari chiaramente delle vittime del terremoto. La borsa la facciamo chiaramente, anche questo fa parte della giornata: meno 0,5 il Mibtel, meno 0,7 l'S&P MIB. Parigi ha perso, diciamo che tutte le borse europee sono sostanzialmente in linea. Parigi ha perso 0,94, il Dow Jones ha perso sta perdendo il 2%, mentre per quello che riguarda l'indice Nasdaq siamo a un calo dell'1,80%, Parigi meno 1 anch'essa. I titoli meno 3,80 CIR, più 3,80 CIR, più 3,40 Pirelli, più 2,80 Autogrill, più 2,38 Buzzi Unicem, più 2,2% Terna, più 2 Unipol, più 1,7 Finmeccanica, più 1,3 Geox, più 1,2 Lottomatica, più 1,1 Campari, più 1% Italcementi ed Enel. Chi ha perso di più oggi? Fiat meno 4,80, Intesa meno 4, Ansaldo meno 3,80, Banco Popolare meno 3,5, Saipem meno 3,2, Prismia meno 2,4, Tenaris meno 2,2, come in pregiro Atlantia meno 2,1, Monte dei Paschi meno 1,80, Bulgari meno 1,6, Generali meno 1,5, Snam meno 1,3%. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, le parole di Soros che dice che ha detto, le abbiamo fatto sentire in apertura del programma, che il mondo bancario, il sistema bancario è sostanzialmente insolvente, sono alle origini di questo calo dei titoli bancari? Certamente, diciamo, c'è stata un po' questo ritorno, un po' di preoccupazione alimentate anche dalle stime su eventuali asset tossici e sui prossimi asset tossici che emergeranno nei conti di istituti finanziari. C'è anche da ricordare che insomma inizia proprio in questi giorni la stagione dei conti trimestrali, e che quindi insomma nelle prossime settimane torneranno nuovamente sotto la lente degli analisti, ma anche degli operatori di borsa, i conti delle banche, per vedere come è andato questo primo trimestre. C'è da dire anche che, insomma, venendo in particolare poi al mercato italiano, la correzione di oggi è tutto sommato una correzione fisiologica, e che molti operatori hanno invece riconosciuto nella giornata di oggi, nonostante appunto una seduta sottotono per i bancari, un certo consolidamento, una certa tenuta per quanto riguarda le borse e anche per quanto riguarda i titoli finanziari, in particolare hanno tenuto Unipol, si è comportata bene la Banca Popolare di Milano, si è comportata bene la stessa Unicredit. E hanno pagato più Dazio, certamente Intesa San Paolo che ha perso il 4%, ha pagato Dazio il Banco Popolare che ha perso il 3,5%. Questo per quello che riguarda chiaramente il settore bancario. L'ultima vicenda di cui vorrei parlare con te è Finmeccanica, perché ha firmato due contratti oggi in Russia, uno per Ansaldo STS e l'altro per Selex, e Ansaldo ha perso, però... Poi abbiamo saputo ieri sera che il ministro della difesa americano Gates ha bloccato l'accordo per l'elicottero americano, per l'elicottero del presidente, 16 miliardi e passa di valore, costruito da Augusta Westland, quindi Italia, e con l'assemblaggio poi americano della Lockheed o dei pezzi della Lockheed. Il titolo è andato bene invece Finmeccanica, come mai? Beh, perché le rassicurazioni sono arrivate innanzitutto dall'amministratore delegato per Francesco Guarguaglini, che ha sottolineato come il programma, quindi le entrate derivanti dal programma dell'elicottero presidenziale degli Stati Uniti non avrebbe avuto alcun impatto sul budget. Analisti come la stessa Mediobanca, come altre case di investimento sottolineavano come appunto questo programma non fosse stato ancora indicato e pienamente quantificato nel budget di Finmeccanica, quindi c'è stata una certa rassicurazione. I contratti che tu ricordavi dall'altro canto hanno dato sostegno al titolo. Lo stesso Guarguaglini ha ricordato che entro fine anno dovrebbero avvenire le prime consegne del Superjet che viene consegnato ad Aeroflot, alla compagnia russa. Esatto, sì. E questo ha diciamo permesso di sostenere il titolo in borsa. Grazie Andrea Fontana, da Sebastiano Bresioni l'augurio e una buona serata. Il nostro pensiero va chiaramente a tutti gli sfollati del terremoto in Abruzzo. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.